Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Caro Caprioli, ognuno di noi è costretto a fare un lavoro che odia pur di guadagnare. Mentre sì. A ognuno di noi piacerebbe fare una cosa che piace, per distendersi, per rilassarsi. Per riposare, è rilassarsi. Vero? È vero, direttore, è vero. E chi glielo vieta? Il denaro. Buongiorno cari amiche e cari amici, Mario Riva e Peppino De Filippo con un brano tratto dal film Totò Peppino Le Fanatiche ci introducono ironicamente a un tema molto serio che determinerà il futuro dei nostri figli e delle nostre famiglie, oltre che della società nel suo complesso, il tema del lavoro. Lo affronta il giornalista della Repubblica Marco Panara nel libro La malattia dell'Occidente, perché il lavoro non vale più. È pubblicato dalla Terza, 152 pagine, 16 euro. Innovazione tecnologica e globalizzazione, secondo Panara, stanno provocando una rivoluzione, anzi quella che lui chiama un'infezione. Il valore del lavoro in Occidente infatti diminuisce costantemente. Come illustra Panara, sul totale della ricchezza prodotta ogni anno nei paesi industrializzati, cito dal suo libro, la quota che va a remunerare il lavoro negli ultimi 25 anni è diminuita mediamente di 5 punti, mentre la quota che va a remunerare il capitale è cresciuta di altrettanti punti. Quindi la finanza vale più della produzione, più del lavoro. Conta sempre di più, dice Panara, il denaro, anzi il denaro a prescindere. Quello che provoca, scrive, una mischia sempre più sregolata e dura, nella quale le conquiste sono precarie, le certezze erose e il futuro sembra prospettarsi peggiore del passato. Il denaro, più che il lavoro, conclude, sembra essere diventato la via per proteggere il proprio status. E da questo deriva un esasperato individualismo, secondo Panara, e una modificazione radicale nell'idea stessa di progresso. E sviluppa questo ragionamento Panara nel suo libro, mettendo in guardia alla fine sulla modificazione stessa che può prodursi sul concetto e sulla pratica della democrazia come l'abbiamo conosciuta fino adesso. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Marco Panara. Buongiorno. Marco Panara, la malattia dell'Occidente è il fatto dunque che il lavoro non vale più. Ma perché questa malattia si è manifestata solo in Occidente? Nel mondo in fondo il lavoro ha ancora un valore? Perché in realtà si è svalutato essenzialmente il valore del lavoro in Occidente a causa della competizione, diciamo, determinata dalla globalizzazione, di 1,5 miliardi di lavoratori pagati molto meno e con molti meno diritti ai 500 milioni di lavoratori dei paesi industrializzati ben pagati o comunque pagati meglio di quelli dei paesi emergenti e con maggiori tutele. E questa è una delle cause. Un'altra causa importantissima è la tecnologia, perché la tecnologia distrugge lavoro medio, lavoro di operai specializzati, di impiegati, mentre aumenta il lavoro povero, i commessi di McDonald's, di Walmart, le badanti, ecco, aumenta il numero di lavoratori poveri, mentre la tecnologia distrugge una quota significativa del lavoro medio, del lavoro che consente di avere un reddito medio. Questo determina un abbassamento del valore del lavoro complessivo nel sistema. Ecco, fermiamoci su due aspetti che lei ha toccato. Il primo, il valore del lavoro, il valore sociale. Il valore sociale non è molto cambiato. In fondo, nelle nostre società occidentali c'è un rifiuto anche a fare molti lavori, appunto, umili, ma che comunque dimostrerebbero questo attaccamento al valore sociale, del valore. Perciò io temo che, essendo diminuito il valore economico, questo porta con sé una diminuzione del valore culturale, del valore sociale, anche del valore politico, se vogliamo, del lavoro. Tanto vero che appunto c'è un cambiamento delle aspettative e quindi si rifiutano dei lavori che a volte sono anche consentono un reddito accettabile, ma sono considerati avere un valore sociale, un riconoscimento sociale più basso. Mi raccontavano che per esempio nella regione Lombardia è stato fatto un corso di formazione per panificatori, che è un'attività artigiana che consente un reddito assai più che accettabile. Non c'era un italiano, erano tutti extracomunitari, cioè c'è una sorta di rifiuto di un certo tipo di lavoro, e questo perché il lavoro in sé conta meno di quanto contava per le generazioni precedenti, e quindi diciamo ci sono delle aspettative che riguardano in parte come dire, l'affermazione personale in certi ambienti, lavori creativi o presunti tali, eccetera, e da un'altra parte l'importanza enorme che si dà al denaro in quanto tale, che si è sempre data, però oggi è centrale nelle scelte. Prima, sì, il denaro è sempre contato ovviamente, però con lo strumento con il quale affermare il proprio ruolo nella società era il lavoro, qualunque esso fosse. Naturalmente uno aspirava ad un lavoro progressivamente migliore, ma anche un lavoro artigiano, un lavoro operaio può avere una sua qualità. Io ricordo molti anni fa la grande orgoglio dei ferrovieri, dei lavoratori elettrici, dei lavoratori dell'auto. Un operaio specializzato della Falck si sentiva una persona che aveva una sua forte dignità. Un'aristocrazia operaia, certo. Esatto, c'era anche un'aristocrazia operaia. Ecco, veniamo all'altro aspetto, la rivoluzione industriale. Noi stiamo vivendo la seconda o la terza rivoluzione industriale. Già nella prima rivoluzione industriale questi problemi si posero, perché tanto che distruggevano le macchine per paura di perdere il lavoro. Quindi, però ne siamo usciti e il mondo è cresciuto, è diventato oltre che più ricco anche più libero e più democratico. Ecco, possiamo avere qualche segno di ottimismo in questo senso? Ma io credo che mentre nel breve periodo la tecnologia distrugge il lavoro perché lo sostituisce, oggi la novità è che non distrugge solo il lavoro manuale, ma distrugge anche il lavoro concettuale, nel senso che lavoro impiegatizio o amministrativo, lavoro replicabile in certo senso viene sostituito dalle macchine di calcolo, no? Prima avevamo un cassiere di banca, adesso abbiamo un bancomat, per fare un esempio tra i più banali. E questa distruzione del lavoro nel breve periodo colpisce la generazione che ci cade in mezzo. Poi naturalmente la tecnologia apre dei nuovi orizzonti e noi andiamo sicuramente verso degli orizzonti straordinari. Temo però che a raccogliere i frutti dell'apertura di nuovi orizzonti che la tecnologia sta creando e che creerà non sarà la stessa generazione che ha pagato il prezzo di questa rivoluzione in questi anni. Quindi c'è una sorta di buco. Questo avvenne, lo racconto nel libro, alla fine degli anni 90, tra gli anni 90 e i primi degli anni 90 dell'Ottocento e i primi del Novecento, quando delle tecnologie, cioè le ferrovie, arrivarono fino ai grandi laghi degli Stati Uniti e poi portavano il grano dal Middle West, e poi attraverso i canali che erano stati realizzati questo grano arrivava sulla costa dell'Atlantico, dove c'erano i grandi battelli ormai a vapore, a motore, non più a vela, i piroscafi, che portavano il grano in Europa. E lì ci fu un impoverimento, naturalmente il prezzo del grano crollò, ci fu un impoverimento delle masse contadine e la grande emigrazione verso gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile, eccetera, dall'Italia, dalla Germania, dalla Polonia, dall'Irlanda, da tanti paesi europei, fu determinata da questo fenomeno, fu quella generazione che pagò un prezzo. Poi naturalmente ogni volta c'è una ripartenza e l'avremo anche noi grazie alle tecnologie della comunicazione, ma anche tecnologie dell'energia pulita, l'auto elettrica quando arriverà, la biotecnologia dopo la mappatura del genoma. Tutto questo apre degli spazi straordinari. Ci vorrà del tempo perché questi spazi diventino opportunità di lavoro diffuse. Oggi lo sono, ma per numeri ristretti. Penso che cambieranno la nostra società abbastanza profondamente. Pensiamo a una produzione di energia non da combustibili fossili, quello cambia moltissimo i meccanismi, l'organizzazione della società e naturalmente creerà straordinarie opportunità. Nel 2010 no, nel 2020 forse, nel 2030 molto probabilmente, ma intanto stiamo vivendo una fase di grande fatica da questo punto di vista. Bene, abbiamo una buona ragione per risentirci fra 20 anni. Grazie a Marco Panara, autore della Malattia dell'Occidente, perché il lavoro non vale più. Buona domenica. Grazie. Allora, se il denaro è la causa di tanti guai, che avessero ragione nel Medioevo, ci può soccorrere in questa risposta il libro di un grande storico, uno dei maggiori viventi, il francese Jacques Le Goff, che ha appena pubblicato con La Terza Lo sterco del diavolo, il denaro nel Medioevo, 220 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Paolo Galloni. Il denaro, dice il grande storico, è un prodotto della modernità che nel Medioevo fu assai meno importante di quanto fosse stato prima, nel periodo romano, e di quanto sarebbe diventato poi dal Rinascimento. fino ai giorni nostri. Ma allora, come lo consideravano in quel periodo e quanto influì sulla concezione del denaro la concezione cristiana? Ecco i temi principali del libro. Sul secondo tema, il rapporto fra cristianesimo e denaro, Le Goff anticipa che la ricerca e l'impiego del denaro, sia da parte degli individui che degli stati, vanno incontro in quel periodo a un graduale processo di giustificazione e legittimazione, seppure contenuto entro certi limiti, a opera dell'istituzione che detiene la funzione di ispirare e dirigere, vale a dire la Chiesa, così Le Goff. Sulla base delle indagini e dei ragionamenti di Le Goff, lo storico riapre un dibattito sul quale è stato versato molto inchiostro, quello sull'origine del capitalismo occidentale. Per Le Goff non si può assolutamente concludere che già nel Medioevo si potesse parlare di capitalismo o pre-capitalismo. Secondo lui la data di partenza è il 1608, anno in cui per la prima volta venne richiesta in Olanda l'elaborazione di un bilancio. E questa di Le Goff è certamente una tesi che farà discutere, soprattutto quanti hanno sottolineato che il cristianesimo, e quello medievale in particolare, non sia stato affatto incompatibile con le origini del capitalismo. Denaro, cupidigia e avidità sono tre parole al centro del dibattito dopo la grande crisi finanziaria che si sta trascinando ormai da più di 3 anni. E allora vi segnalo un'appassionante ricostruzione del crollo di Lehman Brothers e di tutti gli effetti a cascata che esso produsse. L'autore è uno dei più autorevoli giornalisti americani, Andrew Ross Sorkin. Il libro si intitola Il crollo, Too Big to Fail, in retroscena, come Wall Street e Washington hanno cercato di salvare il sistema finanziario e se stessi, pubblicato da De Agostini, 620 pagine, 21 euro. Il libro è tradotto da Giovanna Arenare e Claudia Cavallaro. Nel libro sono molto importanti i retroscena che vengono rivelati. La ricostruzione infatti si basa su una serie impressionante di registrazioni, interviste, appunti, email, agende, ma perfino note spese. A un certo punto l'autore scrive che in un certo senso si potrebbe sostenere che Wall Street sia crollata a causa delle sue stesse astuzie, dal momento che proprio la complessità dei titoli garantiti dai mutui significava che quasi nessuno era in grado di trovare un modo per definirne il prezzo in un mercato in declino. Senza un prezzo il mercato era paralizzato e senza accesso al capitale Wall Street non poteva funzionare. E qui abbiamo la ricostruzione di questa sindrome, esplosa appunto nell'autunno del 2008, condotta questa ricostruzione con un tono ebrio che fanno del libro un autentico thriller. Il titolo Too Big to Fail, troppo grande per fallire, prende le mosse dalla convinzione che le istituzioni finanziarie, appunto troppo altolocate, troppo blasonate, troppo importanti, troppo grandi, non potessero in ogni caso fallire. Un altro pregiudizio che aveva contribuito a corrompere molto i criteri di valutazione. Ma conclude l'autore che un'istituzione o l'intero sistema sia troppo grande per fallire dipende più dagli individui che gestiscono le aziende, da chi le regolamenta, che dalla politica o da regole scritte. Il mondo, l'economia, la finanza, disorientati dalla crisi di cui parlavamo prima dello stacco, hanno sperimentato diverse ricette per risolvere appunto la crisi. Una di queste è stato il ritorno al keynesismo, l'abbandono di una certa paradigma che si era diffuso, quello liberista, dagli anni 90 in poi, e la riscoperta appunto di John Maynard Keynes e del suo interventismo. E vi segnalo dunque, per capire un po' questi temi, un libro proprio firmato da John Maynard Keynes, Sono un liberale, col punto interrogativo, e altri scritti. È pubblicato da Delphi, 320 pagine, 22 euro, ed è curato da Giorgio Lamalfa. Alla domanda in qualche modo risponde lui stesso, il grande economista britannico, il quale scrive: in campo economico, se vogliamo fare qualcosa di buono, dobbiamo escogitare nuove politiche e nuovi strumenti per adeguare e controllare il funzionamento delle forze economiche, così che non interferiscano in maniera intollerabile con l'idea odierna di che cosa sia appropriato e giusto nell'interesse della stabilità e della giustizia sociale. Quindi Keynes si sentiva un liberale che difendeva l'intervento dello Stato proprio in nome di questi ideali. Come ricorda nella prefazione Giorgio Lamalfa, Keynes voleva dimostrare che il laissez-faire non era perfetto e che era necessaria una saggia agenda di governo per correggerne le lacune e le manchevolezze. E qui gli scritti di Keynes ci permettono di seguire il suo ragionamento, le sue analisi, la critica appunto all'SFR, piuttosto che un'analisi sulla Russia del 1925, con alcune intuizioni che sono davvero fulminanti. Per esempio la definizione del leninismo come, scrive Keynes, la combinazione di due cose che per secoli gli europei hanno tenuto in diversi compartimenti dello spirito, la religione e gli affari. Naturalmente, aggiunge Keynes, non sono pronto per un credo a cui non importa distruggere la libertà e la sicurezza della vita quotidiana e che usa deliberatamente le armi della persecuzione, della distruzione, del conflitto internazionale, riferendosi qui naturalmente al comunismo leninista. Però Keynes non nasconde di essere rimasto ammirato dalla prospettiva di una società che si voleva affrancare dall'ossessione appunto di fare soldi, quella di cui abbiamo parlato poco fa. E conclude perciò Keynes con un'apertura di credito alla stessa Russia leninista, come una Russia ancora crudele e stupida, nella quale tuttavia può nascondersi qualche traccia dell'ideale. Qui probabilmente Keynes non l'aveva proprio vista giusta. Una critica acuminata a Keynes è invece quella che gli avanza l'economista Hunter Lewis: tutti gli errori di Keynes, perché gli stati continuano a creare inflazione, bolle speculative e crisi finanziarie. Ed è pubblicato da IBL Libri, 440 pagine, 24 euro, ed è tradotto da Diana Mengo. Questa è una critica molto circostanziata, corroborata dalla prefazione di un grande economista italiano, allievo di Luigi Einaudi, Francesco Forte, il quale sintetizza la posizione di Keynes come il tentativo di risolvere i problemi sociali mediante una terza via, scrive Forte, tra i principi economici liberali e i principi di intervento tecnocratico ed elitario. Si tratta di una grande illusione, aggiunge Forte. Scrive infatti: Keynes è alla radice della teoria presuntuosa e pretestuosa per cui le autorità indipendenti, dotate di potere discrezionale in quanto fatte di esperti, sono capaci di fare le scelte oggettivamente giuste perché il sapere e il bene, come nella filosofia politica di Platone, si identificano. E Lewis argomenta, esaminando diligentemente le opere di Keynes e poi mostrandone quelli che a suo parere sono gli errori. Per esempio le conseguenze delle teorie di Keynes sui mercati finanziari. Sentite per esempio queste righe di Lewis che si riferiscono alla crisi finanziaria, come avrebbe reagito Keynes. Keynes dipinge a tinte forti il mercato azionario, raffigurandolo come una bisca, un covo di giocatori d'azzardo. Esprime quello che forse in molti hanno sempre vagamente pensato. Ma è davvero una descrizione accurata? Beh, è un ritratto ragionevolmente accurato dei mercati azionari durante una bolla speculativa, in periodi come gli anni 20 o 90, o in questo primo decennio del XXI secolo. È durante le bolle che i compratori hanno la maggior probabilità di concentrarsi sull'indovinare l'opinione media, piuttosto che sui fondamentali delle società. Quello che fa Keynes, ovvero descrivere taluni mercati minati da bolle speculative fuori controllo come un qualcosa di normale e condannarli, è di certo molto più che ironico, perché sono proprio le politiche da lui auspicate di emissione di denaro, di credito e di spesa facile che gonfiano queste bolle. E l'autore conclude con una speranza. Speriamo, scrive, di non dover aspettare troppo perché Keynes raggiunga Mao, Marx e gli altri sostenitori di utopie sbiadite e false. Allontanarsi dalle false utopie non significa abbandonare scopi ideali raggiungibili. Possiamo davvero avere un'economia stabile, un'economia costruita su prezzi e profitti veritieri. E questa prospettiva, conclude il libro, ci potrebbe far lasciare la povertà alle spalle finalmente. Come vedete, una critica davvero acuminata a Keynes. Se volete farvi un'idea, leggetevi Le due campane. Ultimi arrivi. Vi segnalo il titolo di un grandissimo del giornalismo italiano, Indro Montanelli, 20° battaglione eritreo. Il primo romanzo e le lettere inedite dal fronte africano, curato da Angelo Del Bocca e pubblicato da Rizzoli, 238 pagine, 19,50 euro. Questo è un libro, un romanzo del 1936 che ebbe appena pubblicato un enorme successo. E qui viene presentato con l'aggiunta delle lettere che Montanelli scriveva ai genitori, che sono molto utili per completare la conoscenza del giornalista impegnato qui in una guerra che, ricorda appunto Angelo Del Boca, fu particolarmente drammatica per l'utilizzo dei gas asfissianti, e questo proprio diede vita a una lunga polemica fra Del Boca e Montanelli. Montanelli escludeva di aver mai assistito a questo utilizzo, ma poi l'utilizzo dei gas asfissianti fu appunto provata, e quindi Montanelli riconobbe onestamente di essersi sbagliato. L'altro libro che vi voglio presentare è di un altro grande giornalista vivente, ha curato l'Italia alla TV, l'autore Aldo Grasso, la critica televisiva nelle pagine del Corriere della Sera, è pubblicato da Rizzoli, Fondazione Corriere della Sera, 212 pagine, 32 euro. Per gli appassionati della televisione, ma soprattutto per gli appassionati del cambiamento, dello sviluppo, della trasformazione della società italiana, questo libro è molto importante. Qui la televisione appunto appare come lo specchio, ma anche la grande regista di questa trasformazione che cambiò in pochi anni la società italiana, e questo è un libro particolarmente interessante per le immagini, per i testi di grandi scrittori degli anni 50 che scandagliano appunto la nostra storia attraverso i grandi miti televisivi, e commentati appunto dalle parole di questi grandi scrittori e arricchiti da immagini che per i più anziani saranno certamente evocative e popolari. E a questo punto il confettino. Chiudiamo con una mosca, un insetto. Il libro è di Annalisa Strada, Fino all'ultima mosca, è pubblicato da San Paolo, 128 pagine, 10 euro, ed è illustrato da Francesco Mattioli. Questa è l'avventura di un bambino che, angosciato dalle mosche, darà vita a un'impresa più grande di lui. È comunque preoccupante, perché tale da mettere in discussione gli equilibri ecologici del pianeta. E con questo ringrazio Margherita in redazione, Fabio Contadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.